Buonasera e benvenuti su Railroad Radio Station. Questa era la nostra sigla, estratta da What's That Noise dei Cold Cut. Alla voce Drago DJ, che vi accompagnerà ogni settimana per questo programma radiofonico della Leaning City. Questa è Uptown Rockers, questa è buona musica, un paio d'ore di soul, funk, hip hop, R&B, tutti derivati della black music. Ma incominciamo subito con il gruppo che maggiormente ha ispirato il mio gusto musicale. Già li sentivate in sottofondo, questi erano i Public Enemy con Loader Turn a Bomb, ma adesso andiamo ad ascoltare uno dei primi pezzi, se non il primo in assoluto, di questo magnifico gruppo, i Public Enemy. Ecco a voi, You Gonna Get You. Oh Chuck, they out to get us, man. Yo, we got the dust, these boys off. In this corner with the 98, subject of suckers, object of hate. Who's the one some think is great? I'm that one. Son of a gun. Driving by, waving my fist. Making them mad when I'm going like this. Top gun, never on the run. You know not to come, cause they all get some. Going quicker in the speeding lane. Jealous can't do it and it's causing them pain. Caught in my smoke, all they did was choke. Out that window, middle finger for all. Jealous at my ride, stereo and black wall. Suckers, they got the nerve and gall to talk about the car when they're walking tall. Suckers to the side, I know you hate my 98. You're gonna get yours. Suckers to the side, I know you hate my 98. You're gonna get yours. Pulling away every day, leaving you in the dust so you know I get paid. On the mile, ego trip and 5-0 tailing on my team. Watch me burn rubber, fall in my flame. This episode is always the same. Seeing no cop coming like I'm blind, or left back trailing my behind. I go fast, the cops try to shoot me. They'll get theirs when they try to get me. I let it go, my turbo. Run them in the river cause they're moving too slow. Laughing hard at their attempt. So what if the judge charges me contempt? I'll run my boomerang cause I'm feeling proud. And I wouldn't even hear him cause my radio's loud. Suckers to the side, I know you hate my 98. Suckers to the side, I know you hate my 98. You're gonna get yours. Cruising down the boulevard, I treat it like some superstar. You know the time, so don't look hard. Get with it, the ultimate homeboy car. All your suckers in the other rides, wherever I'm coming, get to my side. My 98 is tough to chase. If you're on my tail, better watch your face. Smoke is coming when I burn, rubber when my wheels turn. I tint with the soul super. Like they call the Green Hornet hat. It's the reason I'm ahead of the pack. It's the reason I left them back. It's the reason all the people say my 98 Oldsmobile blows them all away. My 98 Oldsmobile is my 98 Oldsmobile. So my 98 Oldsmobile is my 98 Oldsmobile's life. Bene, questi erano i Public Enemy, You Gonna Get You. Ma andiamo a scoprire un po' più a fondo la storia di questo gruppo rap americano. Per fare ciò dobbiamo andare un po' a ritroso, indietro nel passato, all'inizio degli anni 70, per scoprire un po' il risvolto sociale della New York di quegli anni. Partiamo da una cintura autostradale chiamata Black Belt, la cintura nera, che dal Queens porta fino a Long Island, da Merrick arriva fino a Freeport. Qui un sacco di gente, soprattutto neri, si sono trasferiti dal Bronx, da Harlem, dai ghetti, in cerca di un posto dove far crescere i loro figli. Ed è qui che cresce un ragazzo, Carlton Ridenour, che ben presto sarà conosciuto sotto il nome di Chuck D. Ma inizialmente fa il grafico, fa dei volantini per una crew del posto, che si chiama Spectrum City. E in questa crew gravita Hank Shockley, Shockley è il DJ di punta, passa un sacco di funk, electro funk, e poi durante le serate porge il microfono ai giovani MC di Long Island. Tra questi ha una valenza di spicco il giovane Carlton. Carlton ha una voce tuonante, come dice Hank Shockley, quando prende il microfono fa zittire tutti gli altri. Ma andiamo ad ascoltare un altro pezzo dei Public Enemy, Fight the Power. Music hitting your heart, cause I know you got soul. Hey, listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power! Fight the power! Fight the power! Fight the power! We got to fight the power that beat! As the rhythm's designed to bounce with calcium that the rhyme designed to fill your mind. Now that you realize the prize arrives, we got to bump the stuff to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, people! We are the same, no we're not the same, cause we don't know the game. We need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? My beloved, let's get down to business. Mental self-defense or fitness. Don't rush the show. You got to go to what you know. To make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the Power, la canzone ripresa anche nella colonna sonora del film di Spike Lee, Do the Right Thing, fa la cosa giusta. E continuiamo con il rap dannata, continuiamo con un altro MC di alto calibro, il suo nome è Rakim sta per finire il liceo, è un ottimo giocatore di football, un quarterback. Quando un comune amico gli fa conoscere un tizio di nome Eric Barrier, conosciuto come DJ Eric B, il produttore dei futuri Eric B e Rakim. Rakim si rifà alla Nation of Islam, ai 5%ers, e vi presento subito il pezzo Eric B is President. Vi dirò dopo perché ho scelto questo pezzo per continuare su questo filone di rap newyorkese, e dopo vi farò scoprire il campione su cui è stato costruito il pezzo che andiamo ora a sentire. Eric B is President. Make him clap to this. To show our appreciation for your support. Make him clap to this. Thank you, DJs. Make a clap to this. I never let the mic magnetize me no more, but it's biting me, inviting me to rhyme. I can't hold it back, I'm looking for the line. Taking off my coat, clearing my throat. The rhyme will be kicking in till I hit my last note. My mind remains to find all kind of ideas. Self-esteem makes it seem like a thought took years to build, but still say a rhyme after the next one. Prepared, never scared, I'll just bless one. And you know that I'm the soloist, so Eric B, make him clap to this. Make him clap to this. Make a clap to this. Make a clap to this. Make a clap to this. Make a clap to this. Sorry, bug out of chill or be acting ill. No tricks in 86, it's time to bill. Eric, be easy on the cut, no mistakes allowed. Cause to me, MC means move the crowd. I made it easy to dance to this, but can you detect what's coming next from the flex of the wrist? Say indeed, then I proceed, cause my man made a mix. If you bleed, he won't need no band-aid to fix his fingertips. So I'm rhyming too, there's no rhymes left. I hurry up because the cut'll make him bleed to death. But he's kicking it, cause it ain't no half-stepping. The party is live, the rhyme can't be kept inside of me. It's erupting just like a volcano. It ain't the everyday style or the same old rhyme, cause I'm better than the rest of them. Every B is on the cut, and my name is Rakim. Eric B is president. Sì, e questo è Rakim, sempre sintonizzati su Railroad Radio Station, e questa è Uptown Rockers, che vi va a ascoltare tanta musica buona, tanta musica dannata e tanto rap della old school. Come vi avevo detto, Eric B is president, costruito, adesso vi svelo l'arcano, su due beat abbastanza famosi. Il primo è Funky President di James Brown. Il secondo invece è Other Like a Fat Rat di Fonda Re. Fonda Re è una cantante della scuderia di Bob Blank e dei suoi Blank Tape Studios. Adesso infatti vi farò ascoltare questa magnifica canzone. Sarebbe stato bello mixarla, ma purtroppo sono da solo qui in regia e si avvicina già la mezzanotte, quindi siamo già in ritardo. Vi faccio ascoltare subito il pezzone di Fonda Re, Over Like a Fat Rat. Wow.

Opera Azza e i Cold Cut, simbolo della nuova scena inglese di fine anni 80. E da New York ci siamo spostati a Londra, da annoverare tra i gruppi più cool di quel periodo, oltre ai Cold Cut, sicuramente i Bomb Da Bass e i Mars di Pop and the Volume, ma anche il prossimo gruppo, espressione del DJ Mark Moore, un DJ molto sensibile che in quel periodo metteva i dischi allo Shum e al Project. Sto parlando degli Hess Express, con il loro ritornello di sicura presa sul pubblico, I've Got The Hots For You, ho preso una cotta per te, cantato dalla vocalist Karen Finley. E questi sono gli Hess Express con Them From Hess Express. Questo è l'ultimo pezzo, vi saluto, ci sentiamo sull'Onda Anomala per la prossima settimana. E dopo non ci sarà una sigla di chiusura, ancora devo farla, questa è la prima puntata, datemi tempo. Dalla Linen City qui è tutto, ma dopo ci sarà un super mixatone di circa un'ora, ancora per allietare le vostre orecchie in questa notte di autunno. Alla prossima settimana con Uptown Rockers.